andare pure l'ordine de andare allo tour una rang una tuangare yang una ugar devi dare lalla ti andare pure l'ordine de andare allo tour una rang una tuangare yang una ugar devi dare Yang